Che così ricca vestiti die. Madonna, soltanto col vecchio Snowminger. E sa porre le feste, si diverte. La sciabolata viene via per lui. Avanti, avanti, la verde, la verde, la cucagna. No, una moglie così non la vorrei. Vole non per l'amore, per non così. Thank you. danza del bacio. Thank you. più di prima io t'amo. Dammi guardo come io per te mi struppo in desideri. Ancora vivi a nonna questa strana cantar. Fatto il mondo è così. Non può più sia pur Thank you. Caterina si rifiuta l'acqua brava, ti deride se soffre l'acqua brava. Ah, ah, ah, ah, ah, ah,

pace d'un ben colmo bicchier ah si credete a me altro non v'è e viva la Gembach viva 这里是歌舞剧场，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的节目。 invece avete fatto paura. Io la rimasi fino a sera, quando un tratto la bimba disparve, e l'uscì, era già notte, allor decisi di tornare. Un uomo scendeva lento il sentier dell'ave. Date va forse in persona. La notte oscura, e la sventura, la notte oscura. piedi di Valli, il rimorso era l'amore, mi guideranno. È strano, intorno a me sono lamenti, modo stanotte. Ora siamo